Corrono le ore e questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che non c'è. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, ogni secondo bacio te. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, con 24.000 baci, ogni secondo bacio te.